La Trinità è un mistero. Questa è la logica conclusione alla quale arrivano la maggioranza dei credenti in Cristo quando affrontano tale argomento. Eppure Giovanni nel suo Vangelo afferma categoricamente: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre è Lui che lo ha rivelato. Giovanni 1.18, mentre nella sua prima lettera dichiara: sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. 1 Giovanni 5.20. Queste dichiarazioni indicano che, se anche i cristiani non avessero alcun diritto di pronunciarsi riguardo a Dio, perché non lo hanno mai visto, resterebbe loro tuttavia una ragione molto valida per poterne parlare e, addirittura, per poterne spiegare l'identità, poiché Gesù lo ha rivelato, cioè lo ha fatto conoscere. È come se io dicessi che nonostante nessuno di voi abbia visto mio nonno, tramite i miei racconti di quello che ha detto e fatto, vi ho resi comunque in grado di conoscerlo. Perché? Allora, l'argomento della Trinità è ritenuto dalla maggioranza un mistero per la ragione umana. Perché chi lo spiega professa di credere in tre persone in un unico Dio, cioè il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, o in tre persone distinte, le quali però condividono una stessa natura o sostanza divina. E, per complicare apparentemente le cose, chi crede in questo Dio trino afferma di non essere un triteista, cioè professa di non credere in tre dei, ma di essere un monoteista. Come si spiega questo? Com'è possibile credere in tre persone distinte che sussistono in una unica natura divina? Una spiegazione razionale è possibile se si prendono in esame singolarmente le parole base che costituiscono l'affermazione, cioè cosa si intende per persona e cosa si vuole comunicare, affermando che queste tre persone possiedono la stessa natura o sostanza. Prendiamo in esame il termine persona. Le scienze naturali classificano il mondo in tre regni: regno minerale, il regno vegetale e animale. La razza umana appartiene al regno animale perché con questo condivide molte caratteristiche, quali soffrire, gioire, procreare, relazionarsi con la propria specie. Però l'uomo non è un animale ma una persona. Cosa distingue allora una persona da un animale? Quali sono gli elementi costitutivi di una persona? Sono almeno tre le componenti che distinguono una persona: l'autocoscienza, l'autodeterminazione e il senso morale. L'autocoscienza è quella capacità di essere coscienti di esistere e di pensare. Il famoso cogito ergo sum, cioè penso perciò esisto, non è altro che una testimonianza e la presa di coscienza di esistere. Cosa non possibile nel regno animale. Gli animali hanno molte caratteristiche umane, ma senza averne coscienza, così come non sono coscienti di esistere. L'autodeterminazione è quella capacità di volere, proprio tipicamente caratteristica dell'essere umano e della quale gli animali sono sprovvisti. Essi sono guidati dai loro istinti, mentre una persona, essendo guidata dalla la sua volontà, è in grado di andare anche contro i propri istinti. Inoltre, una persona si distingue dall'animale proprio perché dà un senso morale al suo comportamento, mentre un animale non chiede scusa ad un altro, né si vergogna di certi comportamenti. Perciò quando i cristiani confessano di credere in tre persone, sostengono di credere in tre esseri che hanno una autocoscienza propria, una autodeterminazione propria e una coscienza propria. Questa sola verità porterebbe però a pensare che queste tre persone siano tre differenti divinità. Ma un'altra verità è che queste tre persone posseggono o sono partecipi di una stessa e unica natura divina. Per essere afferrata, questa verità si può spiegare con l'esempio di una famiglia costituita da un padre, una madre e un figlio. Tutti e tre sono partecipi di una natura umana, di una natura animale e di una spirituale. Condividono la natura umana perché tutti e tre sbagliano, invecchiano e muoiono. Condividono una natura animale perché tutti e tre soffrono, giocano e si relazionano. condividono pure la natura spirituale, perché tutti e tre ammirano il creato, amano, odiano e possono parlare con Dio. Stessa cosa succede alle tre persone della Trinità. Tutte e tre sono partecipi della natura eterna. Cioè, né hanno avuto principio e neppure avranno fine. Tutte e tre le persone della Trinità sono autosufficienti e tutte e tre sono partecipi della stessa moralità, cioè hanno la stessa bontà, la stessa onestà e correttezza. Non è una cosa necessariamente difficile da accettare e comprendere perché, come una famiglia terrena condivide la stessa natura umana limitata e con tutti i suoi difetti, così le tre persone della Trinità condividono la stessa natura divina, eterna e perfetta. Per questo mi è stato insegnato al catechismo fin da piccolo che Dio è tre persone uguali e distinte, come persone perché hanno una propria autocoscienza e autodeterminazione, ma uguali come natura, come se avessero lo stesso DNA. Proprio perché vi sono tre persone distinte, occorre non fare confusione riguardo al rapporto intercorrente in seno alla loro relazione, dove se uno è il Padre non può essere il Figlio né lo Spirito Santo. Cristo, essendo il Figlio, non è il Padre né lo Spirito Santo, mentre lo Spirito Santo non è né il Padre né il Figlio. Ogni persona ha una propria personalità, pur condividendo la medesima natura o sostanza eterna, in virtù della quale tutti e tre non hanno principio né fine. Sono uguali in potenza e gloria. Così ogni persona della Trinità ha un rapporto specifico e diverso nei confronti dell'uomo. E se il Padre è il solo ad aver mandato il Figlio, se il Figlio è il solo ad essere morto in croce, se lo Spirito Santo è colui che rivela Dio all'uomo e lo rigenera, significa che nel leggere la parola di Dio non possiamo fare di tutte le erbe un fascio, il che nel nostro caso vuol dire confondere le tre persone divine che si distinguono per una relazione incomunicabile perché opposte fra loro, con il loro rapporto personale con il creato e l'uomo. Questa distinzione è doverosa e indispensabile. Per comprendere maggiormente questo aspetto, nel leggere ciò che Dio ha rivelato di se stesso nella Scrittura, riprendiamo l'esempio della famiglia terrena. Io mi chiamo Ellero Balzani, mia moglie si chiama Lidia Balzani, avendo assunto il mio cognome, mio figlio si chiama Davide Balzani. Siamo tre persone distinte, aventi ognuno una propria personalità, ma accomunate da un medesimo cognome. Così, se si parla della famiglia Balzani, ci si riferisce a tutti e tre. Mentre se si parla di Lidia, di Davide o di Ellero, ci si riferisce ad una sola di queste persone. Stessa cosa è del Dio Trino. Il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito Santo è Dio. Se parliamo di Dio, questo termine può lasciare intendere un riferimento sia a tutte e tre le persone, come a una sola di queste. Per questo chi vuole comunicare esattamente il suo pensiero dovrebbe, ed è costretto, a specificare a chi si riferisce, se al Padre, se al Figlio, se allo Spirito Santo, oppure a tutte e tre le persone della Trinità. Ne consegue allora che quando leggiamo che Dio è Spirito, Giovanni 4.24, e nessuno lo ha mai visto né lo può vedere, Giovanni 1.18, 1 Timoteo 6.16, 1 Giovanni 4.12, dobbiamo avere le idee chiare in merito a ciò che capiamo. Nessuno ha visto Dio, nel senso che nessuno ha visto la Trinità, oppure nessuno ha visto il Padre, il Figlio o lo Spirito Santo tutti insieme. Dalla risposta che ci diamo, siamo in grado di comprendere la Trinità. Una cosa è certa, Yahweh, cioè il Dio dell'Antico Patto, è stato visto. Una sola testimonianza ripetuta due volte nelle Scritture è sufficiente. Poi Mosè ed Aaronne, Nadab e Abihu e 70 degli anziani di Israele salirono e videro il Dio di Israele. Sotto i suoi piedi c'era come un pavimento, lavorato di zaffiro, della chiarezza del cielo stesso. Ma egli non stese la sua mano contro i capi dei figli di Israele, ed essi videro Dio, e mangiarono e bevvero. Esodo 24.9.11. Che dire poi di Abramo, di Giacobbe, dei genitori di Sansone, di Gedeone, del profeta Isaia e a tanti altri, che videro il Dio di Israele e per questo temevano di morire? Così si è costretti a conciliare la verità che Dio non si può vedere nonostante sia stato visto e toccato. La spiegazione è molto semplice e sta nel fare una netta distinzione tra il termine Dio e il nome Yahweh. Che Yahweh sia Dio è fuori discussione, ma chi è questo Yahweh? È il Padre, il Figlio o lo Spirito Santo? Oppure il termine Yahweh sta a significare tutti e tre le persone della Trinità. Quando leggiamo nella Bibbia il termine Signore o Eterno, il cui equivalente in ebraico è appunto Yahweh, dobbiamo ravvisarvi un nome attribuibile indistintamente a tutte e tre le persone della Trinità, oppure dobbiamo ravvisarvi solo una di esse? Questa è la domanda chiave per comprendere la scrittura. Una cosa anche in questo caso è certa. Non è mai scritto che Yahweh sia il Padre, né lo Spirito Santo, ma in tutta la parola di Dio, Gesù stesso, gli apostoli, molti studiosi della scrittura, testimoniano che Yahweh sia Cristo e solo Cristo. Ecco spiegato il mistero della Trinità. Yahweh è Cristo, che si è fatto vedere con un corpo palpabile, già prima di essere stato fatto carne, Giovanni 1.14, carne simile a quella del peccato, Romani 8.3, e il quale in seguito ha vissuto con gli uomini facendosi vedere e toccare. Per questo Gesù poté dire «Chi ha visto me ha visto il Padre», Giovanni 14.9. Certo, Gesù Cristo non era e non è il Padre, e il Padre non è Cristo Gesù, ma Gesù si riferiva alla sua natura divina da Lui condivisa con la persona del Padre, o alla natura paterna che possiede la Trinità. Dove sta il difficile? Quando parliamo di Dio ci riferiamo a tutte e tre le persone della Trinità. Quando parliamo di Yahweh ci riferiamo ad una sola persona della Trinità, la quale, essendo partecipe in eterno della relazione trinitaria, ha fatto conoscere a noi uomini terreni tale profonda realtà, creando l'uomo a sua immagine, una immagine che è possibile vedere anche nella famiglia umana. Come sta scritto, la sapienza sta davanti a chi ha intendimento, ma gli occhi dello stolto vagano fino agli estremi confini della terra. Proverbi 17.24. Queste parole non sono forse valide anche per ciò che riguarda l'argomento della Trinità? Non abbiamo già nell'immagine della famiglia umana un riflesso della famiglia divina? Tre persone distinte, ma aventi in comune una stessa natura divina. Giugno 2010. Ellero,